onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone. Uni. Ed è bello il venerdì sentire un megafono che annuncia l'inizio di una puntata. Infatti, 19 febbraio 2016. Siamo ancora la qua. Quinta puntata della terza serie. Non nego, Enzo, che ho un'aspettativa di doppiare Star Wars. Sì, ma secondo me come longevità e come puntata. Ecco, e su questo chiediamo a Simone a che serie è arrivata. È arrivato al settimo episodio. Settimo episodio di Star Wars. Pare che fino a 9 siano già stati iscritti. Ah, ecco. No, fino all'ottavo. Fino all'ottavo. Non volevi fare lo spiritoso, lo sapevi veramente? Musica! No, aspetta, questa Radio F. Questa è Piazza Alta. 89.2. Piazza Alta, raccontiamo cose interessanti, vediamo gente. Parliamo con... Sì, appunto. E stasera puntatona. Puntatona evocativa, rievocativa e ma soprattutto propositiva. Ah, educativa, pensavo. I'm not afraid to die. questa secondo me ti piace, Marcello. Perché pensi che possa piacere? Perché ti garba, perché sono i garbei. L'avrei detto. Con Stupid Girl, che chi un po' dentro siamo un po' tutti. Ma senza offendere nessuno, chiaramente. Allora, Radio Piazza Alta. In FM 89.2 è la frequenza principale dove tutti ci possono ascoltare nell'etere. Ma con la tecnologia di oggi. Ah, dove possiamo andare? Ma lontano. Su Marte. ci mancava, era un po'. In streaming i nostri ascoltatori ci possono percepire su www.radiof.it oppure scaricando le app per Android ed Apple. Ma non sai che possono da quest'anno dirci cosa? Dimmi. Possono addirittura dirci cosa pensano di te. Online, diretta. Online, esatto. Mandando un messaggio, un semplice messaggio, un WhatsApp. Al 392-4900-800. Da 1976. Troppi numeri tutti insieme. Veramente. Ma stasera di che cosa parliamo? Posso dirtelo io? Ma prego. Più che altro non di che cosa, ma con chi parliamo? Parliamo con un grande personaggio. Che abbiamo capito che è anche una vecchia conoscenza di Radio Eter. Tra l'altro, perché trasmetteva qua con noi. E dopo, prima lo presentiamo, poi faccio tutto il cappello. Facciamo al contrario. È con noi Mauro Pasqualini. Buonasera Mauro. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Grazie di essere qui e soprattutto perché ancora non ha offeso Enzo. Ma lo farà verso la fine. No Mauro, è una persona gentile. Io oggi, mentre pensavo a cosa dire per presentarlo, mi è venuto in mente questo. E siccome so che te la sei preparata, ti me la invito fai dire a declamarla. Allora, Mauro, non devo sbagliare, un grande baffo, un grande piede, ma soprattutto un grande cuore. E stasera. E io ho condiviso questo modo di annunciare Mauro Pasqualini. Ammettiamo che qualcuno all'ascolto non sappia chi sia. Iniziamo dall'inizio. Avete sentito l'accento di Mauro, che sicuramente non è proprio toscano. Mauro, da dove vieni? Vengo dall'Emilia. Dall'Emilia, precisamente? Da Crevalcore, in provincia di Bologna. Crevalcore. Dove c'è stato il terremoto. Esatto. Ah, è vero, sì, è vero. Allora, diciamo così. Stasera parleremo con lui. Mauro Pasqualini è stato un grande calciatore. Ma stiamo scoprendo che è un uomo anche poliedrico, perché nel corso della sua vita, almeno fino adesso, ha fatto anche altre cose. È eccelso nella sua attività principale, però stiamo scoprendo che ha anche tantissime altre virtù. E infatti partiremo da quello che è la sua storia come calciatore, e anche prima ci racconterà un po' tutto quello che vuole Mauro, per poi arrivare a quello che fa adesso, che è una cosa diciamo che è molto lodevole, perché la fa puramente per spirito. E ci fa piacere anche sensibilizzare tutti i nostri ascoltatori sulle iniziative che andremo ad ascoltare. Ora dopo facciamo parlare Mauro, perché se no è inutile. Continuiamo noi. Allora facciamo così, abbiamo fatto la presentazione, andiamo con un altro splendidissimo brano, poi ci abbiamo da salutare un sacco di gente, scordiamocelo. E poi però iniziamo finalmente dopo a parlare con Mauro. Buon ascolto dalle F Frequenze. Poi? Don't shake up because you have to. Don't shake up, won't you? I think you're fine, it's just too late to find a way to go away. Now just seems our isolation from education. cheap, so I'll stay there for a while. I'm always thinking of you. I'm always thinking of you. I'm always thinking of you. I'm always thinking of show you find. It's not too late to find a place we would never stay. Yeah, the planet's having funny. Occupato. Occupato. Con Nova, sono italiani. Nova, questa, sì. Nova. Sono italiani, ma vivono a Londra e lì hanno registrato questo album. E io voglio ringraziare Simone per quello che fa ogni settimana dal punto di vista musicale. Ma come si sente che sono proprio rotto dalla commozione. Lo dici con sentimento. Ricordiamo che questa è Radio F, questa è Piazza Alta. Stasera parliamo con Mauro Pasqualini, nostro ospite in studio, un po' della sua vita. Perché? Perché è una vita interessante, non come la tua, Marcello, per dire, no? Ed è per questo che faccio radio. Allora, abbiamo detto di nuovo buonasera Mauro, ciao. Buonasera a tutti. E partiamo dall'inizio. Tu, diciamo che sei famoso principalmente perché sei stato un calciatore di Serie A. A me viene i brividi solo a dirlo, perché insomma, per te è normale perché sei abituato tutti i giorni, per me no. Come è iniziata la tua carriera da calciatore? Partiamo da lì, poi arriviamo fino ai giorni nostri. Beh, come tutti i sogni di ragazzini, quando giochi nel paese speri sempre di arrivare al massimo, però non ci pensi a quell'età lì. Poi dopo, quando cominci a crescere, ti vengono a dire che guarda che oggi c'è qualcuno che ti viene a sorvare, una cosa o un'altra, e allora ci cominci a pensare. E io dal mio paese, da Crevalcore, giocavo e c'erano gli osservatori, e uno di Bologna chiese alla società di andare a fare un provino a Bologna. Ci andai e mi andò bene, e da lì da 13-14 anni a cominciare ad andare lì. Insomma. Quindi sei arrivato al Bologna già alle giovanili, giusto? Giovanili. Che ruolo? Ala. Allora si chiamava Ala, adesso, esatto, sì, adesso non si sa. Non so se potrei giocare adesso in questi tempi qua, perché adesso c'è il raddoppio, il triplo, quindi non so se potrei fare un dribbling in più, quindi... Il primo andrebbe bene, il secondo e il terzo mi butterebbero giù, insomma, non lo so, insomma, questo pressing che c'è al giorno d'oggi. Comunque, io tra l'altro ho avuto anche la fortuna di vederti giocare, insomma, era uno spettacolo. Eri leggiadro, nel senso era difficile prenderti la palla. Era uno che mi piaceva dribblare, insomma, prendevo tante botte, però mi piaceva anche divertirmi a dribblare gli avversari. Quindi hai fatto praticamente tutte le giovanili del Bologna fino ad arrivare proprio alla prima squadra. Esatto, sì, e quello è il bello, perché anche adesso quando ci penso, che parlano a debuttanti in Serie A, penso a tutte le trafile che ha fatto quel ragazzo lì, dai piccolini più su, i giovanissimi, allievi, la primavera, e niente, poi cominciano a convocare per la prima squadra, e dice, domani vai a fare una partita con la prima squadra, insomma. Allora, deve essere un'emozione forte. Sì, che età avevi, Mauro, la prima volta che ti hanno convocato? Beh, avevo avuto... In Serie A, intendo. Sì, beh, in Serie A, sì, ho giocato prima in Serie B. Prima in Serie B, capito? Ah, con la prima squadra eravate in Serie B? Sì. No, insomma, giocai, come hai capito, col Catania prima. Ah, è vero, sì. hai ragione, perché sì. Sei andato in prestito. Sì, abbiamo vinto nel 67 il torneo prima di Viareggio col Bologna, e poi andai, c'era Ballacci, l'allenatore di Bologna, faceva l'allenatore Catania, mi chiamò, e avevo 18-19 anni, insomma, andai lì. Ecco, a parte, ora scusami Marcello, ma a me questo è un argomento che mi prende. Come è noto e come si sente, diciamo, il calcio. No, mi piace il calcio. Sono ferratissimo. Sì, infatti. Ma per esempio, a 18 anni partire e andare a Catania da Bologna è un'esperienza. Cioè, bisogna avere anche gli attributi. Quello è sicuro, perché ti arriva una persona, ti mettono ti mette in sedia e dice: noi abbiamo parlato con la società del Bologna, ti piacerebbe venire a Catania, così Serie B, così c'è l'allenatore che ti vuole, così. Era tutto nuovo per me, però sai, certo. Non ci pensi, quindi l'incoscienza di Dio. Però dopo ci cominci a pensare, perché sei a 1000 chilometri di distanza, ma, capito? Quindi... In effetti, se mi permettete, quello a cui stavo pensando io è proprio anche questo. Comunque l'età è, diciamo, è quella di un adolescente, di un ragazzo, di un giovanotto, però sono scelte anche importanti. Sa, è vero che forse è un ambiente anche protetto, però lasciare la famiglia, l'ambiente per fare questi 1000 chilometri in cerca di realizzare un proprio sogno, come in questo caso fino a Catania, è stata un bel salto, insomma, una bella sfida. È stata una bella esperienza, anche poi perché c'erano altri giocatori del Bologna. Hai capito? Quindi c'era Rado, c'era Fara, il povero Fara, il povero Vitali, che sono morti, pace l'anima sua. E niente, già sentir parlare qualcun altro in bolognese dava coraggio. Sì, e poi insomma mi insegnavano bene, insomma ero un ragazzino, però avevo tanti babbi, questo è bello. Quindi hai fatto un anno a Catania? Sì, un anno, poi dopo ritornai a Bologna e ritornai, finì e dopo giocai in Serie A nel 68, insomma. Ecco, ma uno, questa, scusate, ma non mi ricapiterà mai più, ecco, entrare in campo quando hai uno stadio pieno, dall'Ara tra l'altro è anche un bello stadio, insomma, voglio dire, all'epoca a maggior ragione, insomma, era importante. Che emozioni si prova? Cioè, la Serie A, con per esempio la prima partita che hai fatto, ti ricordi contro chi l'hai giocata? Una domanda quasi retorica, scusa. No, poi preciso contro la Juventus. Quindi volevo dire... Il risalto è stato grandioso, perché insomma... Vabbè, proseguiamo ancora un po', dopo un altro po' di musica, parlando ancora un po' di calcio, perché dobbiamo parlare di un certo... Sì, non so chi. Mi sembra Pelé, ma non vorrei sbagliare. No, lascia perdere. Non dare indizi. Baba Sisso Co con Doni Doni. Doni Doni. Beh, ora siamo, ormai cantante, Natale è passato, Enzo. È un cantante maliano. Ma? Maliano, del Mali. Del Mali, ecco. Che Mali c'è? Che Mali c'è? Maledetta primavera. Ricordiamo che potete seguire Radio F non solo tramite la diretta, ovviamente, che è bellissima. Che è bellissima anche perché è diretta vera, è direttamente per voi. Ma potete seguirci anche su Facebook, chiaro, su Twitter, e mandandoci un messaggio su WhatsApp, suonandoci al campanello, venendo qua, ma che è un po' più complicato. Senti, però Enzo, prima di rientrare nell'argomento a bomba, io volevo salutare tre persone, se mi permetti, giusto, perché ultimamente diciamo riceviamo tanti attestati di stima, però voglio fare anche nomi e cognomi. Salutare, facciamo i nomi: Giacomo di San Sepolcro, Andrea e Alessandro, Mario e Fausta. Allora, io approfitto per si sono riusciti ad accendere la radio. Un saluto a Mario e Fausta, che tanto ci è andato. E tanto speriamo che ma ci poi diano salutiamo ancora anche l'amico Matteo, che è impegnato in cucina a fare un'impresa epica, ma lo sa lui. Perché... E l'assaggeremo dopo. Bene, ritorniamo con il nostro ospite, Mauro Pasqualini, che io, chiaramente non da tecnico, volevo riprendere un attimo il discorso che avevamo fatto e gli volevo proprio chiedere, visto che il suo impegno in ambito sportivo è, diciamo, datato come professionista, ma continua anche oggi, volevo capire se quell'ambiente che lo ha accolto, diciamo, da giovane e gli ha aperto una strada anche professionale, per come lo percepisce lui, si è un po' evoluto, si è lo stesso, si è cambiato molto rispetto in meglio, in peggio, questo magari ce lo dice lui, perché so che lui, per esperienza diretta, accompagna e istruisce, tra virgolette, cerca di trasmettere sia la passione sia anche la tecnica anche ai giovani di oggi che cercano di avvicinarsi e di magari forse non sfondare in maniera automatica, ma di farsi apprezzare nel mondo del calcio. Com'è l'ambiente? Molto diverso da 20-30 anni fa. Diverso. Quindi, visto qui alla mia destra c'è Simone, no? Sì. Quindi se ne parlava fuori onda, è molto diverso del tempo di allora, quando c'era Simone, e al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi ho cambiato tante cose che a me non mi stanno bene, perché siamo stati abituati diversamente noi, hai capito? Ecco, una volta forse c'era più l'idea del sacrificio, diciamo, dell'allenamento, rispetto, della forse, pregazione, il concetto di squadra, non lo so. No, sono cambiati i genitori. I genitori. Sono cambiati i genitori e... i giovani d'oggi che vogliono fare i babbi e la mamma, adesso mi fanno tanti nemici, ma non me ne frega niente perché è la realtà. Quindi, beh, poi è una tua esperienza, quindi sì, esperienza, perché sai, girato, quello che ho dici, girato nella Val di Chiana, per mia fortuna, in tante squadre, e vedo che insomma, i genitori di allora e i genitori di oggi cambiano tanti. Quindi, sono un po' diversi. Sono un po' diversi. Vedi i bambini, adesso ti racconto un fatto: un bambino di 7-8 anni a fine allenamento, la mamma lo va a prendere, gli dà la borsa, dice portala a te mamma, no, prendila a te, e lui l'ha mandato a quel paese, e lei invece ha visto, si è messa a ridere, dice, hai visto, mio figliolo mi ha mandato a quel paese, dico quel paese perché ci vorrebbe il bip, hai capito, però. E lei si è messa a ridere invece di arrivargli, non dico con un sculaccione, dico, però si è messa a ridere, gli ha preso la borsa e si è preso quel fantasca, hai capito? Però Mauro, se mi posso permettere, visto che ho uno, il mio figlio più piccolo, che comunque gli piace, insomma, ruota nell'ambito calcistico, lo sport può essere comunque un momento di apprendimento della disciplina, di elementi positivi della squadra ancora oggi. Forse il problema sta un po' fuori dal campo, come dicevi giustamente. No, è tutto fuori dal campo. Perché il campo ti insegna, perché c'hai istruttori bravi, ti insegnano l'educazione. A me il calcio nei miei tempi mi ha insegnato a stare in mezzo alla gente, l'educazione, amare il prossimo. Tutte queste cose che mi sento orgoglioso in questo momento qua di dire, capito? Perché il calcio per me mi ha insegnato tante cose, capito? Io per esempio una cosa che apprezzo molto, seguendo a distanza e non da tecnico, è il fatto anche della condivisione sia della vincita che della sconfitta, che per esempio può essere anche oggi, dove tutto sembra quasi dovuto, sembra una cosa lontana da diciamo anni luce da ma le vedi le cronache sui giornali, tutti i giorni c'è una partita sospese perché i genitori in tribuna si picchiano e sospendono le partite perché i bimbi piangono, piccolini, insomma. Adesso non comandano più, comandano tutti i genitori, adesso comandano le mamme. Una volta le mamme stavano in casa, come dice, fa la casa, come diceva una cosa da noi, no? Adesso comandava il babbo, adesso il babbo sta anche zitto perché sennò piglia anche due ceffoni dalla moglie. Ha smesso un po' i pantaloni lunghi. Esatto, adesso comanda la mamma adesso, come è cambiato il calcio. Facciamo un appello alla mamma a questo punto. Calma. No, non state in cucina, a casa. No, però, proprio no. Diciamo, basta venire al campo e stare zitti e fare il tifo per tutte e due le squadre. Perfetto. E alla fine se vince lei, dice bravo, stata volta vincerai, ecco, però sarebbe non bellissimo. Ci credo comunque, capito? Perché io vedo tutte le domeniche che è peggio di sempre. Ma no? Noi siamo... Ho visto un cartello su Facebook, una società attaccata all'ingresso, e dove c'è scritto genitori, voi dovete fare il tifo, allenatori, voi dovete allenare, giocatori dovete giocare. Cioè, c'era un vademecum per dire... Cercate di stare ognuno al suo posto. Ma venendo invece, per l'amor del cielo, ottimo, cioè ottimo. Me l'avevi scritta tu la domanda. Io volevo tornare perché comunque no, adesso secondo te sei te che gli dai l'educazione a tuo figlio, certo. Quindi voglio dire adesso gli insegnerai le cose, come si fa a stare al mondo, tutte queste cose qua. Io ho nonostante tutto, ho comunque un'idea positiva di tutto quello che è l'organizzazione, l'approccio sportivo all'interno del campo diciamo di quello che viene trasmesso da professionisti, insomma, che da tempo lavorano all'interno del calcio, che hanno fatto anche la loro. E condivido con te il fatto che però, al di là di questo, del momento, dell'orario dell'allenamento, c'è poi tutto un discorso familiare, esterno, ambientale, che può incidere, può anche vanificare quello che è il lavoro positivo fatto. Quando venite in questo campo qui dovete fare quello che dico io, nei limiti, voglio dire, certo. Quando siete a casa ci avete i vostri genitori, quindi io non posso arrivare lì, però quando siete qui dovete dar retta a fare quelle cose che vi si dice, hai capito? Come, è tutto qui. Come sentite, Mauro, ma ve l'avevamo detto all'inizio della trasmissione, insomma, una persona con esperienza e con una profondità importante, e tra l'altro io vado su altri argomenti, non ho figlio, quindi volevo ricordare che Mauro ha da sempre collaborato con Radio F e lo faceva già negli anni scorsi. Se andate sul nostro sito potete trovare una storia molto toccante di un bambino, poi ve lo che leggete, è stato aiutato i protagonisti, un interessamento diretto di Mauro. Ma poi prosegue tuttora perché al commento tecnico a fine partita dell'Arezzo, tra gli altri commenti tecnici, c'è anche quello di cui Radio F si vanta di avere l'esclusiva. Esatto, si vanta anche di avere il commento di Mauro, che tutti vorrei dire le domeniche, ma l'Arezzo gioca di sabato, di domenica, comunque dopo tutte le partite dell'Arezzo fa il suo commento. Però prima di andare con il prossimo brano, io avevo finito l'intervento precedente con una cosa che per noi tifosi di calcio è veramente entrata nel mito. Succede che Mauro, giocando con il Bologna, va a fare una tournée di amichevoli in America e fa un amichevole con una squadretta che si chiamava Santos. Ma dice Santos. Dice, e giocava lì. Nessuno giocava. Non ci giocava nessuno nel Santos. C'erano 5 giocatori che nel 70 avevano vinto il mondiale. Solo i mondiali, capito? E noi si giocava nel 72 che c'era Edu, Carlos Alberto, Clodoaldo e Pelé. Andando un po' in giro per il mondo, e quindi, non casualmente fu una fortuna bella perché si chiamarono i tifosi italiani e brasiliani. Noi al Santo si dormiva nello stesso albergo, si mangiava nello stesso tavolo insieme e abbiamo fatto un mese meraviglioso perché si prendeva l'aereo da New York, si andava a Montreal, poi si ritornava, poi si andava a Chicago, poi si ritornava insieme. Insomma, abbiamo fatto 3 partite in un mese, siamo stati insieme e siamo diventati quasi amici, capito? Però non mi aveva venuto in mente di chiedere a Mai, perché la chiedevano tutti e lui non la dava a nessuno, non credo. A Pelé, perché Pelé sì, era quello più richiesto, ovviamente. Allora Pelé, io ero un bambino, quindi vedere Pelé lì davanti era già un sogno quello lì, capito? E invece un giorno che è successo? Poi l'ultima partita, che lui era un fenomeno perché lui entrava 5 minuti dopo e usciva 5 minuti prima, perché sennò le partite non iniziavano mai e non finivano mai, perché si giocava nei campi da baseball e non c'era le ringhiere. Certo. E quindi se lui fosse entrato con voi... lui entrava e la gente, capito? E la gente, l'unica volta che l'ultima partita perdeva 1-0 con noi e lui è venuto a rimanere in campo e l'ha pareggiata. E però, insomma, dopo appena finita la partita, il pezzettino di maglia, insomma, capito? Tutto intorno, capito? E invece lui, le altre due partite... Se ne andava un po' piano prima. Piano e scappava via, perché sennò... Capito? Era talmente tanta la e niente, nella partita, in un certo momento, c'era una pallone che andò fuori, mi fece con il col dito, io dice sì, mi chiamò con la mano, dice vieni qui, grazie per lei, insomma. Andai lì, si cavò la maglia e me la diede, capito? Che cosa secondo te Mauro aveva fatto scattare? Perché lui dopo capì, perché c'era in squadra Edu, che era un gran driblomano, un giocatore, no? Sì. E lui gli piaceva la gente che dribbla, capito? E io ero uno che la palla la portavo anche a letto. E quindi mi piaceva dribblare una cosa o un'altra, e lui gli piacque i dribbling che facevo. E lui, te lo riconobbe in questo e modo? E lui me lo riconobbe in quel modo, che dopo chiamai l'interprete, dice, mi chiedi perché mi ha dato la maglia, dice, perché mi piaceva come giocavo, capito? Pensate. Feci la doccia con la maglia a letto sotto il letto, capito? Mi sembra di vederla ancora sotto la canottiera. No, poi il bello fu che quando proprio i giornali portarono in risalto il mio paese, quando ritornai, fece il giro in una settimana in un bar, in un altro, fece il giro di tutti i bar, capito? Con la maglia di Pelé, quindi quello è ancora tuttora, dopo 40 anni e passa, quando c'è i mondiali, viene sempre fuori la maglia di Pelé, capito? Certo. Tra l'altro poi la maglia di Pelé ha anche un'altra storia, e infatti poi qui entriamo nell'altro argomento di cui Mauro adesso è protagonista, ma abbiamo fatto un intervento da 11 minuti, ma tanto lo sapevo, perché con Mauro sarebbe stato impossibile non parlare così tanto, perché ci sono cose un po' interessanti. Quindi andiamo un altro brano e poi parliamo ancora di questa maglia di Pelé sotto un altro punto di vista. Buon ascolto dal 1976. Here I am back home again, I'm here to rest. All they ask is where I've been, knowing I've been west. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair, pretty girls with their faces fair, see the shine in the black sheep boy. If you love me, let me live in peace. And please understand that the black sheep can wear a golden fleece and hold a winning hand. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair, pretty girls with their faces fair, see the shine in the black sheep boy. I'm here to rest. All they ask is where I've been, knowing I've been west. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair, pretty girls with their faces fair, see the shine in the black sheep boy. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair, pretty girls with their faces fair, see the shine of the black sheep boy. E il nostro Simone, giustamente sentendoci parlare di questi anni, gli anni 70, la canzone è bellissima, esatto, il disco Walker, errore di questa sera. Scott Walker con Black, ho sentito il sound Black Sheep Boy del 1968, gli anni in cui Mauro furoreggiava nei campi di calcio. E questo ci può, questa musica ci può un po' riallacciare a quello che ci stavamo raccontando piacevolmente fuori onda con Mauro Pasqualini. Sì, perché Mauro ci raccontava appunto di questa tournée fatta dal Bologna col Santos negli Stati Uniti. La loro sede principale era New York e ovviamente non tutti i giorni giocavano, comunque si allenavano, ma quando avevate tempo libero che cosa facevate, Mauro? Tanto siamo fuori dalla parte. Avevate delle incombenze. Non ci ascolta nessuno, dice. No, facciamo così. Che cosa ti hanno chiesto dall'Italia? Ecco, diciamo così. Niente, già visto, posso raccontare che quando era un evento andare in America certo. In quegli anni lì, era andare fuori dal mondo, 10.000 chilometri. Quando lo seppero tutti, insomma, e poi dai, vai dal prete a farti benedire, insomma, andai da Monsignore, nel mio paese, mi benedì perché era un evento, un ragazzo di 18-19 anni, andare in America, insomma, star via un mese, e quindi niente. Poi c'hai gli amici, quelli un pochino hard, mi chiesero che allora cominciai a conoscere, mi compri Playboy, che allora Playboy andava, le coniglietti erano. Sì, te lo dico. Che poi non era nemmeno la rivista più spinta del mondo, assolutamente. Però andava allora, io mi ricordo che andavo lì, dice Playboy, insomma, poi li portai in valigia di Playboy in Italia. Però insomma qualcuno li portai giù, li nascosi anche perché non si poteva. È chiaro. Quindi, come avete capito, se ci state ascoltando dall'inizio, la storia di Mauro come calciatore vede grandissime soddisfazioni, ma poi, siccome l'accento è bolognese, la sua vita nei primi anni si svolge in provincia di Bologna, saremo tutti qui a chiederci perché sei in provincia d'Arezzo a Foiano della Chiana. Che succede? A un certo punto Bologna mi dà Arezzo, quindi okay. Serie B, anni 1969-70, niente, e lì ho conosciuto mia moglie. Che è tuttora, insomma, tuttora è mia moglie. Quindi e che è di qua? È di qua, di Marciano, quindi... E niente, sono ti qui sei per... trovato bene. Sono trovato bene perché sennò quest'ora qua già. Conoscendomi, hai capito? Sì. Perché poi gli faccio sempre arrabbiare perché gli dico: con quante donne c'è a Bologna? Dico proprio qua mi e lei si arrabbia quando dico: poi ti viene? No, dico. Se ho scelto te perché un motivo c'era. Comunque niente. Tant'è che hai finito anche la carriera da calciatore proprio in provincia d'Arezzo, a Foiano, giusto? Sì, a Foiano, sì. Diciamo gli ultimi anni dove hai dato spettacolo, perché quelli l'ho visti anch'io. L'hai sì. sempre dato, ma quelli ho avuto la fortuna di vederli. Sì, siamo anch'io. Fortunati che quell'anno lì siamo andati anche in quarta serie. Sì, in campionato. Avevamo una grande squadra, quindi niente. Da allora, dopo ho ricominciato a girare qui la Val di Chiana. Allenare tutte queste squadre qui, i bambini, le prime squadre, insomma. E sono ancora qui. Che sei sempre legato a questo sempre mondo. Legato, adesso sono a Foiano, quindi... Hai fatto anche l'osservatore per il Milan, insomma. Sì, esatto, quindi, sì, insomma, fatto l'osservatore, sempre... esatto, sì, ho fatto l'osservatore. Si ricollega per il Milan. Con il discorso di Playboy, insomma. No, no, scusate. Niente, no, facevo con Brider, che era direttore sportivo... Direttore generale al Milan, allora abbiamo giocato insieme nel Monza e nel Cesena. Ah, è vero. Nel Monza avete vinto anche la Coppa Italia. La Coppa Italia, sì, esatto, 74, quindi a Sorrento, quando c'era Lauro. Ah, però. Era presidente Lauro. Allora, ti ricordo, guarda, sono tutti episodi che me li ricordo adesso come se li avessi qui. Stadio immenso, pieno, arriva dentro lui, no? Lauro era il presidente del Napoli. Era un personaggio, sì, capito? Certo. Arrivò dentro, fece... un cenno con la mano, smisero tutti di dire... 80.000 persone in silenzio. Ma la cosa, capito? Era queste gente qua che comandavano, capito? Poi quando ricominciarono a fare il tipo per il Sorrento, quando arrivò dentro lui fece un cenno, silenzio, fece così con la mano e ricominciarono. Però ecco, tutti i personaggi che... Il carisma dei grandi uomini. Prego, potevi dire qualcosa di intelligente. No, dico, arrivato a Foiano praticamente, comunque in Val di Chiana, Mauro... abbiamo detto per anni tuttora ruoti intorno al mondo del calcio, soprattutto nel settore giovanile, poi però è nata anche un'altra passione e ci fa piacere parlare di questo, che ti vede protagonista ormai a mo' di lavoro, nel senso per le ore che ci spendi. Raccontaci un po' che sta succedendo ormai da anni, non è che da oggi. Stai parlando del canile? Esatto. Ho cominciato per scherzo, è diventato un lavoro e sono contento perché insomma i sacrifici ne valgono la pena, hai capito? Perché c'è un canile a Lucignano, che praticamente è gestito per la maggior parte del tempo da te, Mauro. Sì, insomma, siamo due e mezzo. Sì, due e mezzo, insomma. Io la mattina alle 5 mi alzo, alle 6 vado in pasticceria a fare colazione, poi vado al canile e ci vuole dalle 4, 5, 6 ore, dipende sempre se viene qualcuno, mi devo fermare, se no insomma devi pulire 20 box, devi far da mangiare una cosa o un'altra, quindi... Ecco, quanti cani ci sono al momento in questo canile? All'incirca, non è ma che... Ma una sessantina, adesso eravamo fino a 70 e passa, insomma, capito? Abbiamo avuto una cucciolata, due cucciolate di 14 cani. Però... E quindi, insomma, la cosa importante è che quelle, i cuccioli vanno via subito. Sì, abbiamo fatto una cosa su Facebook, le fotografie, una cosa o un'altra, e in 15 giorni sono andati via subito, perché i cuccioli, vogliono tutti i cuccioli, e quelli più anziani rimangono lì perché la gente, giustamente, come dicono loro, li vogliono abituare loro, se hanno i bambini una cosa o un'altra, e quelli più anzianotti rimangono lì. Però io dico, guardate che ci sono dei cani che raccontano una storia. Venne un signore e dice, c'è la mia mamma più di 80 anni, 85 anni, che è rimasta sola e vuole un cane da fargli compagnia. Dice, se avreste qualcosa, mi ha dato un consiglio, mi ha dato un cane di una certa età. Ecco, ancora ci sta ringraziando, perché gli fa la compagnia, si muove lei, si muove il cane, dove va un passo, dorme con... E quindi la mamma è contenta e quindi lui ci ringrazia perché deve dargli consigliato. Ecco, perché magari la paura di una persona che non conosce bene l'argomento è che magari se prende un cane maturo, comunque più grande, non riesca ad affezionarsi alla persona. E invece noi ci dà i cani che ci chiedono, voi conoscete le esatto, dei vostri cani, quindi sapete. Certo, c'è un pitbull, non gli posso dare un pitbull. Sì, certo, capito? Certo. Quindi voglio dire un pitbull. Che... Potrebbe anche essere una soluzione che qualcuno oggi può anche ricercare, no? Esatto, sì, però hai visto, non parliamo di queste cose qui, perché hai visto un ladro entrato dentro, è stato morsicato, è stato denunciato il padrone e dovrà pagargli anche i danni. Quindi al giorno d'oggi viene un cane da guardia. Anzi, se uno va a rubare viene ripagato, visto? Sì. Quindi, come dicevi giustamente tu all'inizio, Enzo, grandi piedi ma anche grande cuore e grandi passioni per Mauro Pasqualini. Quindi, in questo momento, insieme al discorso che stavamo facendo del canile, perché ci interessa, perché in un certo senso vogliamo fare anche un appello, un po' di sensibilizzazione per questa attività, perché chiaramente non è soltanto un'attività che raccoglie e impegna queste pochissime persone, ma anche una funzione, perché non solo diciamo possono consigliare un cane da compagnia per qualcuno o diciamo per qualsiasi necessità, ma come diceva fuori onda prima Mauro, ci sono persone anche che non lo possono tenere e quindi glieli portano. Sì, immagino. E quindi sarebbe importante sensibilizzare tutti, perché questi tipi di attività, chiaramente svolte in maniera volontaria, senza, come si dice, scopo di lucro, non solo che vanno conosciute, vanno anche sostenute. Sì, per esempio mi viene in mente, Mauro, una domanda banale, però magari può essere utile, di che cos'è che per esempio potete avere più bisogno, banalmente, per dare un contributo a questa attività che è solamente puramente amatoriale e a scopo benefico? Niente, prima di tutto volontari, se c'è qualcuno che lo può fare. Che può dedicare un po' del suo tempo. Esatto, un po' del suo tempo e via per darci una mano e non venendoci a chiedersi soldi, perché insomma, quando, certo, quando feci l'appello per televisione Teletruglia e dici... I volontari vennero, però alla fine poi chiesero, diceva, i soldi, capito? Però dico, questo dico, è un volontariato, non abbiamo uno per farne due, quindi se ti diamo i soldi, quindi se puoi venire gratuitamente oppure darci la mano. E poi niente, le altre cose, le crocchettine, le scatolette, queste cose qui sono le cose più essenziali, perché le medicine, tutta roba che paghiamo noi, capito? Perché abbiamo dei cani che tutti i giorni devono prendere le medicine. Quelli che hanno le leishmaniosi, tutti i giorni abbiamo da dare le medicine, cioè non abbiamo... Quindi andate avanti con il contributo... Con i nostri, ogni volta si fa un banchino, adesso abbiamo fatto l'ultima volta, l'abbiamo fatto all'Alessia Lungarezzo la raccolta alimentare, sì. Adesso sta per finire tutto, adesso bisogna partire da capo a metterci le mani in tasca e capito? E a ripagare, insomma, non siamo come certi canili che vengono sovvenzionati dal comune, dall'amministrazione. Noi abbiamo tre comuni che... Zero lire, insomma, capito? Abbiamo Marciano, Lucignano e Foiano, che insomma, a parte Foiano, che parlai con il sindaco, e ha dato i soldi, ha dato i soldi al comune di Lucignano, che adesso, dopo un anno, ci ha fatto, ringraziamolo, dopo un anno ci ha fatto la copertura, capito? Adesso però c'è un'altra parte da fare, che è quella che ci toccherà mettere le mani in tasca noi, e domattina con la Presidente andremo a vedere certe cose per vedere se ci sta bene il prezzo, tante cose, quindi insomma, quindi dal punto di vista strutturale organizzativo, perché c'è degli impegni, non è soltanto l'accudimento fine a se stesso dell'animale, ma è anche una certa organizzazione della struttura per accogliere questi esatto, perché noi abbiamo un cuore d'oro, quindi non si può aspettare un altro anno di copertura, perché adesso viene il sole, poi continuerà a piovere, insomma, quindi noi bisogna cercare di accelerare i tempi, e quindi domattina con la Presidente andremo siamo due e mezzo, io, la Barbara e la Presidente, quindi noi facciamo un appello importante, sia perché chi ha tempo e passione per gli animali si faccia avanti, insomma, ci contatti te per vedere se può dedicare delle ore a questa attività, e poi anche se ci fossero delle attività, dei modi per sostenere. Esatto, magari non abbiamo tempo, però abbiamo altri modi per dare una mano comunque a queste persone che dedicano invece gran parte della loro giornata in maniera del tutto gratuita, per poter sostenere sia l'attività che anche le poche persone che in questo momento sono coinvolte si sentono coinvolte in questo progetto. Andiamo con un altro brano, perché poi ho da fare una domanda che non sembra intelligente, ma potrebbe essere. Ma non mi aspetto granché. You. questa cioè, la devo anche disannunciare, no? Perché no? I Police, Message in a Bottle. Guarda, senza leggere, pensavo abbiamo... suonato. Era il 1979, rimaniamo negli anni, nei fantastici anni 70, che ci hanno visto protagonisti in quanto nati negli anni 70. Più protagonisti di così. Ma torniamo a parlare, purtroppo, per l'ultimo intervento, ma io ve l'ho detto all'inizio che ci avremmo avuto bisogno di 4-5 puntate per parlare con Mauro Pasqualini, che è qui con noi, proprio per dimostrare ancora una volta la sua bontà. Mauro Pasqualini, con la maglietta di Pelé, che gli era stata donata da Pelé stesso, a un certo punto decide di fare una cosa. Raccontaci, Mauro. Niente, purtroppo venne il terremoto al mio paese. Ricordiamo, creva il cuore in provincia, provincia di Bologna. Non ci furono morti, ma però il paese fu distrutto, le scuole, tutte, insomma, la palestra. E parlando col sindaco, diceva è tutto distrutto, adesso bisogna ricostruire tutto. Niente, mi venne in mente, dico, tanto di questa maglia qui, dico, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, insomma. Misi un appello, che la mettevo in vendita al miglior offerente. Al miglior offerente, per tutto il ricavato andrà per fare costruire la palestra al mio paese. Niente, venne un appello da Bologna, dal presidente dell'UISP, e mi chiamarono, insomma, dice noi vorremmo comprare la maglia, così, insomma, gira e gira, abbiamo tirato su 22.000 euro, però. 22.000 euro che sono andati completamente 22.000 per la euro della nuova palestra. E la RAI, e dopo, quando venne fuori questa storia qui, ci fu la RAI, ci furono tutte queste interviste. Tra l'altro ci fu una cerimonia vera e propria, insomma. Ah, sì, scherzo, fu una cerimonia vera e propria con la RAI, con quegli assegni come danno in America per far vedere, insomma, con scritto 22.000 euro, insomma, capito? E niente, e poi dopo è successo, dopo un mese... Perché siccome la bontà chiama bontà... Chiama bontà, esatto. Dopo un mese che succede? Dopo un mese mi richiamò il presidente, dice domenica... Della WISP. Della WISP, dice vieni allo stadio domenica, c'era Bologna-Palermo, mi ricordo, che abbiamo bisogno. Andai a Bologna, c'era il presidente Guaraldi, c'era Prandelli... C'era il presidente, e quando arrivai su mi disse: siccome che te hai fatto un coso effettivo e per te questa maglia per te era una cosa molto bella, certo. Dice: apprezziamo il tuo gesto che hai fatto, ma te la ridiamo. Insomma, questo, ragazzi, è il massimo. Veramente. Tra l'altro, potete vedere le immagini di tutta questa storia di questa maglietta sul sito del Bologna, sito ufficiale fcbologna.it, e ci sono le immagini dove Mauro riceve di nuovo indietro la maglietta dopo il suo gesto veramente splendido di rinunciare alla maglietta che ti ha regalato Pelé. Voglio dire, no, solo questo vale non ha cifra, conto, non ha cifra, esatto. E questo ancora una volta per dimostrare il cuore di Mauro, appunto, che, come vi dicevamo, gestisce assieme ad altre 2-3 persone, più 2 che 3 persone ormai, 2 e mezzo in totale, Gada, gli angeli degli animali, che è il canile dove appunto accudiscono una 60 in questo momento di cani. Tra l'altro c'è anche un profilo Facebook, sì, Gada, gli angeli degli animali, Onlus. E se, diciamo, può essere interessante, visto che ci possono ascoltare anche in streaming, potremmo dare anche il numero di cellulare. Sì, assolutamente, di Mauro, tanto per queste iniziative. Dalla pagina Facebook possono raccogliere informazioni, vedere immagini e anche contattare l'associazione. Poi Mauro, se mi permette, mi ha già detto di sì, do anche il numero di Mauro, qualora qualcuno avesse intenzione di contattarlo direttamente, per qualunque tipo di informazione, se avete voglia di prendere un cane e di trattarlo come si deve, se avete voglia di dare una mano in qualunque modo, potete chiamare Mauro, contattarlo o col messaggio telefonicamente al 338 13 46 272, lo ridico, 338 13 46 272. Abbiamo capito che Mauro ha un cuore d'oro, vi risponde anche la notte. No, magari la notte no, ma... Ce lo sento, sì. Bene, io lo sapevo che il tempo sarebbe stato poco, l'ho detto già 4 volte, vabbè, non importa. A questo punto ci diamo tutti appuntamento. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Con Piazza Alta. Con Piazza Alta, ma a domani con i programmi di Radio F, lo splendido sabato di Radio F, e a domenica con la domenica sportiva di Radio F, dove se risentiremo anche Mauro a commentare l'Arezzo. Quando l'Arezzo gioca in casa. Quando l'Arezzo gioca in casa. Ora non so, io siccome seguo meno... Adesso ne ha 2 fuori. È fuori casa. Canarese e Prato. Bravo, grazie Mauro, ci salvi. E quindi l'appuntamento... Intanto grazie ancora Mauro davvero grazie per voi, quello che ci hai raccontato. Buonasera. e vi ricordo ancora la, se volete contattarlo, Gada gli angeli degli animali Onlus su Facebook, e l'appuntamento è per venerdì prossimo. Ecco, bravo, dovrei andare con la sigla, quindi se dici due parole te prendo la sigla. Sì, è stato come sempre una puntata di quelle importanti dove si è riso, si è scherzato, ma abbiamo cercato di lanciare anche degli, diciamo, dei concetti, degli appuntamenti, dei concetti importanti. Dovevo dire qualcosa e senza dire nulla. È stato difficilissimo. Ci vediamo, ci sentiamo. Sai quant'è che ci provo? Una vita. 1976. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone. Une. Alle riprese video, Paolo. Aulo. A venerdì prossimo. Ossimo.